Ed eccoci di nuovo qui, bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori, radioascoltatrici su Jetlag. C'è Lara Russo proprio qui davanti a noi che ci lancia dei segnali di fumo. Ciao Lara, bentornata ai nostri microfoni. Ciao. Come ti senti? Stanca, spassata, felice di averlo fatto e un po' triste che alcune cose non sono andate. Ma la Beh, ma il bello della diretta, tecnica! È c'è bello. sempre È un anche il bello faro della che casca in tecnica. testa, Odio la una luce tecnica. che non parte, una No, musica al sì. contrario. Ma guarda, credo che non abbia minimamente È un inficiato po' il sì, senso perché del il timing, lavoro. you know, is important. I know. But anyway, We are in here and we are bisognerebbe chiedere, satisfied insomma, no, poi al a tutti pubblico. quelli che non conoscono, non hanno la percezione interna di come era pensato il lavoro, anche che cosa gli è arrivato, insomma. E noi infatti dovremmo approfittare di questo momento, anche perché secondo me Lara sta soffrendo il freddo ai Sì, piedi, quindi quindi noi lasciamo. andiamo a fare un giro di domande per Ottimo, chiedere e io mi metto le se. calze. Lasciamo che Lara vada a cambiarsi e a festeggiare, perché lo spettacolo è stato un successo e quindi bisogna festeggiare e ubriacarsi, mentre noi andiamo a A dare chiedere il a chiedere al piloto pubblico. ad altre forme di vita senzienti nei paraggi. Abbiamo il ristoratore della locanda che ci ha tanto generosamente Offerto un nutrito in prendere questi giorni. Ci siamo lasciati davanti a un piatto di tagliatelle al tartufo e funghi porcini. Non ci antipasto freddo, antipasto aspettavamo caldo e non ci di aspettavamo che ritrovarla qua. arrivasse. Com'è andata questa esperienza, vedere questa cosa qui ad Accettura? Ma guardi, io purtroppo sono arrivato tardi perché, come stavate dicendo, ero impegnato giù. Ho sentito i commenti e credo che sia stato qualcosa di veramente positivo, interessante e che possa servire per far conoscere ancora di più a quei pochi che ancora non conoscono il Maggio di Accettura, il Maggio di San Giuliano. Quindi è stato qualcosa di veramente bello. Allora la ringraziamo e ci vediamo Grazie. al prossimo piatto di tagliatelle e nel frattempo andiamo a importunare qualcun Mentre altro. altre persone possono vogliono essere importunate. La importuniamo? Che ne dice? Ma io veramente sono all'oscuro, ho Lei ha visto. visto lo spettacolo? No, ho No, visto il non ha. movimento e sono venuto. Così per vedere che Non so nemmeno di succedeva. che si tratta. Ah, quindi è arrivato in ritardo, Sì, eh? se ne andava C'è stato qualche minuto fa una performance di danza da lei. contemporanea di questa artista italiana che è stata una settimana qui nella comunità di Accettura e quindi ha conosciuto dei suoi compaesani, lei di Accettura, giusto? E quindi è stata qui, ha lavorato con, ha conosciuto anche la famosa festa Ambiente del ritardo. accetturese. Eh sì. Ma anche il signore che non è riuscito a vedere la performance dal vivo, ricordiamo che la potrà ascoltare nella versione radiofonica su Radio Live in podcast tra qualche settimana. Noi continuiamo nel nostro giro di Di domande. importunaggio degli spettatori, come è nostro costume. Avevo visto Avevamo visto. Eccoci Eccoci. qua. Lei l'ha visto lo spettacolo? Sì, eccomi. Lei chi è? Nome e Lei. cognome per piacere. Bartirucci Domenico, un collaboratore di Lara Russo che ha collaborato per organizzare questo grande evento che è una cosa spettacolare. E quindi lei ha avuto un ruolo attivo nella performance. Niente, nell'andare a riprendere questi tronchetti per organizzare diciamo, tutto lo spettacolo, i tronchetti a ripulire, ad Lei è aiutare. Domenico che aveva la Jeep, che poi è andata a Bravo, riprendere, perché noi bravo. Il video l'avete visto? abbiamo aiutato Lara a prendere qualche legno, però sapevamo che poi doveva arrivare un Domenico con la Jeep. L'abbiamo Ora il cerchio si chiude, aspettata Giovanni. per un po', però. Sono io il Domenico con la Ecco. Jeep, E ora sono che l'ha andata. visto realizzato il lavoro, come si è sentito? Spettacolare, emozionato soprattutto perché no, di questi eventi qui non ce n'erano stati prima di questo momento che l'avete organizzato voi. Quindi non è per forza detto che la danza contemporanea non si capisce niente, come ha No, c'è fatto. qualcuno che la capisce, non è una figura. Poi collaborando con delle persone che ti spiegano delle cose. come funzioni il funzionamento, quindi è un'emozione. Quindi è importante secondo te anche che si condivida in qualche modo un po' la lettura di quello che è accaduto e continuare. Sì, soprattutto continuare, perché lei, come mi ha spiegato, visto, diciamo, insegna danza, ho fatto pure delle proposte che io ho dei locali per poter organizzare la danza, soprattutto perché ci sono dei giovani che vanno magari a Potenza, a Matera, che in quanto si può fare anche qua, non è che è in modo di dare spettacolo anche ai cittadini acetturesi. È un'ottima, un'ottima idea, è un punto di vista molto interessante. Prendere in considerazione, perché oltre alla questione dell'isolamento di Acettura, non c'è solo la questione di viabilità, di raggiungere un posto all'altro, oppure per esempio, come diceva Giuseppe, non c'è il pronto soccorso. Sono cose molto importanti da dire, però anche il discorso di persone competenti che possano dare un contributo culturale, artistico alla comunità, come una maestra di danza, ma anche altre specificità. Una persona è un discorso, spostandosi solo una persona è un discorso come l'area, diciamo, per venire qua, spostandosi tante persone diventa più difficoltoso. Solo quello, però se c'è possibilità, noi siamo disponibili a collaborare. Con la sua Jeep o senza? Ma la non Jeep. C'è problema, anche, compriamo anche il pullman. Per... pullman è fuori strada, però. No, quello sì, quello non deve mancare, perché in base diciamo all'altitudine che ci troviamo e condizioni meteo, che la neve, sì, esatto. Di seguito. Quindi può andare bene uno e l'altro. Ma noi ci vediamo anche dopo la performance a Pietra Pertosa. Ho chiesto all'aria, ho detto perfetto. Di sì, si è andata a cambiare, per sì. Allora, a tra poco, ci rivediamo là e noi continuiamo un attimo il nostro giro. Grazie mille. Grazie mille a Domenico e anche alla Jeep, ma soprattutto a Domenico. Ops, ho appena dato una spallata, chiedo scusa. Sapete, qui la situazione è molto, molto affollata. E chiedere, io andrei a procederei a infortunare il prossimo gruppo di spettatori. Spettatori, sì, o di persone che io ho visto. Giuseppe, che abbiamo intervistato ed era anche live oggi. Non vedeva l'ora di rivederci. Esattamente, però vorrei chiedergli cosa ne pensa dello spettacolo di Lara, dopo che lui è stato una delle persone che ha accompagnato e avuto cura di Lara, perché è appunto parte integrante del comitato di cura. Forse è qui sulla destra solo per... Andiamo a stanare Giuseppe, che avete ascoltato oggi durante la rubrica Antipodi, parlarci della condizione anche giovanile del piccolo borgo di Acettura. Forse è sceso giù dalle scale? Ma possibile? Forse sì. Forse sì. Ma forse no. Beh vediamo, facciamo altri due passi. Giusto una rapida occhiata. Ricordiamo al pubblico che noi siamo nel Museo dei Culti Arborei. E eccoci in compagnia di un'altra spettatrice. Buonasera, buonasera. Benvenuta ai microfoni di Radio Live. Buonasera. Io sono Silvio. Io sono Giovanni. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Rosanna. Benvenuta. Di Acettura? Sì, sì, sì. Tu sei di qui e sì, vivi sì. Qui? Vivo qui e studio a Bari, quindi vivo un po'. Un po' e un po'. Un po' e un po'. Però no, immagino che tu non fai avanti e indietro tutti i giorni. No, farai, no, no, stai no, anche sì, a Bari. Sì, sì, sì. E com'è la tua esperienza di vivere un po' a cavallo tra questi due mondi? Tra una città grande comunque e un borgo così piccolo? Bello, perché appunto cioè, si notano le differenze sostanziali che possono esserci, cioè, e si apprezza sia l'uno che l'altro. Ovviamente. C'è una delle due dimensioni che senti più congeniale per te o alla pari? Oddio, forse ancora la devo trovare, però mi trovo bene in entrambe le situazioni. Se dovessi immaginarti nel futuro, non so, tra facendo questo gioco tra 10 anni, così, dove ti vedi? Più qui o più di là? Tra 10 anni credo lì, però vorrei restare qui. Vorresti restare qui in realtà? Sì, sì. E magari chi lo sa che non sia possibile, esatto, stare un po' qua, un po' là? Ma speriamo, anche perché poi è vicino, non è... Sì, ma poi apro una riflessione, scusami se lo faccio, ma è giusto andare per poi anche ritornare, quindi sì, può essere che sì. Lei continuerà a seguire questo andare qui e andare là, poi si mantiene un po' più per Bari e poi torna ad Acettura, che comunque... Lo vedi che sei bravo? Ma io lo io so, te lo dicevo che sei bravo. Ma tu che cosa fai? Lavori o studi? Studio. Cosa, se posso? Scienze della comunicazione. Ah, scienze della comunicazione, vai, ottimo. E senti, a proposito della performance invece, l'hai vista te? Sì, sì. E che impressione ti ha lasciato? Cos'è? Bella, poi abbiamo vissuto l'ARA, io sono parte del comitato organizzativo, e quindi è stato bello vedere il risultato di questa settimana in cui l'ARA appunto è stata qua con noi. E, bello, una bella performance. Poi appunto noi abbiamo questo legame con il maggio, gli alberi di per sé, quindi viviamo la natura poi a Cettura tra i boschi, quindi. Ci hanno detto che la festa del maggio, no? Così, per come ci hanno raccontato, ha una presenza molto maschile, diciamo, ma che anche le donne hanno un ruolo molto importante. Sì, sì, sì. Ce lo puoi accennare un po' meglio così? La presenza maschile essenzialmente muove la festa, perché nel trasporto degli alberi la scalatura è svolta dagli uomini, il lavoro dell'albero, quindi diciamo la parte pratica è degli uomini sugli alberi, mentre la parte organizzativa nel paese è tutta delle donne. Come il cibo, le cente, quelle che stanno lì, quelle strutture di candele, e vengono portate dalle donne, ci danzano le donne con queste cente, quindi è fondamentale la presenza delle donne. Quindi in realtà chi porta avanti la baracca sono le donne, come sempre. Dire, gli uomini fanno la parte scenica. Esatto, però penso che un giorno potrà una donna salire sugli alberi congiunti. Potrebbe essere una domanda: potrà una donna salire sugli alberi? Ma io credo ci voglia solo coraggio. Esatto. Essenzialmente, perché è altissimo, cioè così forse non rende, ma è veramente veramente alto. Quindi. E su questa bellissima risposta direi: io credo ci voglia solo coraggio, che si potrebbe applicare a un sacco di altre cose nella vita. Ringraziamo Rosanna, cercavamo Giuseppe ma abbiamo trovato Rosanna, e direi che va bene lo stesso, perché a Radio Live le sorprese non mancano mai, non finiscono mai. Grazie mille. Grazie a voi. Allora ci sentiamo tra Sì, tra poco ringraziamo anche tutti voi radioascoltatori e radioascoltatrici, e vi diamo appuntamento tra pochissimo alle 19 per la Diorama, bravissima. Intervista in questo caso a Paola Bianchi. Tu sei più bravo. No, tu sei bravo. Tu sei bravo. Diorama che precede la performance di Paola Bianchi, che vedremo a Pietra Pertosa. Ci sentiamo e ci vediamo prestissimo.